chiudo gli occhi, respiro questa impazienza che fumo nella speranza piovosa che verrai. Sono le quattro e ho vita fino a stasera, ma è buio già nella strada o nei pensieri miei. Verrà, verrà, vedrai, prima o poi si poserà fredda su di noi. L'avrai sulla fronte quando parlo con te. Toccherà terra il fondo del tuo respiro. Si scioglierà. Sfibio la giacca, sicuro, ma in tutta scena. Sto muto, c'è un viva voce qui negli sguardi miei. Ogni sorriso che faccio è un'espressione di ghiaccio, me lo conservo per quando piangerai. Verrà, verrà, vedrai, prima o poi si incresperà tra le braccia tue. L'avrai nella voce quando mi guarderai. Sfonderà il cielo e dopo cadrà nel vuoto, si infrangerà. Dimmelo amore, ancora dillo si muore. Questa paura è viva, questo dolore che ci incatena alla panchina che brucia il sole, forse la sulla fronte quando parlo con te. Toccherà terra il fondo del tuo respiro, si scioglierà. Verrà, verrà, vedrai, prima o poi si imperlerà sulle labbra tue. L'avrai sulla bocca quando mi bacerai. Scoppierà dentro il fuoco, nel tuo profumo si perderà.